Eccoci qui con il corso Mishnah del Kollel Torah a Roma. Procediamo, questa volta abbiamo una novità rispetto ai discorsi che sono stati fatti nelle precedenti Mishnayot di questo capitolo, il terzo capitolo intitolato Hamafkid del trattato Bava Metzia. Fino a qui abbiamo parlato dello Shomer, e cioè del custode. Ora entriamo un po' in un altro ambito, sempre partendo dall'ambiente del custode, che potrebbe trasformarsi in qualcos'altro. Come si può trasformare il custode in qualcos'altro? Fino a qua abbiamo parlato di problematiche che potrebbero realizzarsi, che potessero realizzarsi nell'ambito della custodia di un oggetto, di un bene, problematiche che non dipendono necessariamente dal custode stesso. Oggi parleremo di una situazione in cui il custode, in maniera imprevista dagli accordi, usa o muove o sposta l'oggetto, il bene che gli è stato custodito, che è stato custodito presso di lui, e entreremo in un ambito di furto. Cosa si intende per furto? Dal momento che io tocco un bene che non è mio, in una maniera, con una modalità che non è prevista dall'accordo di custodia stipulato con il proprietario del bene, io divento in quel momento, per la Torah, un ladro. Nello specifico un gazlan, che è il termine che indica chi ruba di nascosto. Cosa succede allora? Come si può gestire una situazione di questo tipo e che tipo di ricaduta ha sulla regola della responsabilità dello shomer? In quanto sappiamo bene ormai che lo shomer, il custode, soprattutto quello che custodisce gratuitamente, è esente dal pagare eventuali problematiche, danni o furto nel caso in cui ha fatto il suo lavoro secondo quanto è previsto. È sicuramente esente nel caso di un ones, cioè di una cosa che accade a causa di forza maggiore, per questa cosa non avrebbe potuto fare niente anche se avesse custodito molto bene. Quindi in quel caso sarebbe esente. Nel momento in cui faccio qualcosa di imprevisto e divento un ganav, un ladro, un gaslan, allora in quella situazione non sono più uno shomer, e forse anche per una minima cosa ho una responsabilità molto più elevata e sono responsabile, sono colpevole e devo pagare. Allora vediamo di cosa si tratta. Apriamo la nostra Mishnah. La Mishnah parlerà di una botte di vino data in custodia. Pensiamo anche al tempo stesso di un esempio moderno, perché la maggior parte di noi non abbiamo delle botti di vino di nostra proprietà nelle nostre cantine. Forse qualcuno sì, ma non credo quasi tutti. Facciamo un esempio moderno. Diciamo che il tuo amico, il tuo migliore amico, deve fare un viaggio, ha paura che la sua moto Harley Davidson sarà in qualche maniera non protetta. Allora ti chiede il favore di custodire nel tuo garage la sua Harley. Tu però, nel corso di questo mese che tuo amico è fuori, non riesci a trattenerti e devi fare un giro con questa Harley. Fai un giro e succede qualcosa. Oppure no, fai il giro, non succede niente, lo rimetti a posto, forse in una posizione un po' diversa rispetto a quello che era prima, e poi succede qualcosa. Ora sappi, nel momento in cui tu sei salito in sella alla Harley, non sei più uno shomer, sei un ladro. Cambia cambia totalmente la definizione del tuo ruolo in questa situazione. Tu da questo momento sei un ladro, però l'ho rimesso a posto. È successo prima, è successo dopo, dove è successo, quali sono i parametri, quali sono le varianti che dobbiamo prendere in considerazione, ora vedremo. Normalmente la Gemara dice che quando qualcuno, se qualcuno avesse rubato, per esempio, un animale, una pecora dal gregge, ha preso una pecora e l'ha rubata, e poi ha deciso di fare teshuvah, di restituire ciò che ha rubato, deve restituirlo deve rimetterlo nello stesso luogo dal quale l'ha rubato. Quindi questa è una delle condizioni. Per lo Shomer è la stessa cosa. Allora, la nostra Mishnah è la Mishnah numero 9 del capitolo 3. Prima di vedere il testo della Mishnah, un'altra piccola nota. Quali sono le tre, chiamiamole, varianti importanti che dobbiamo sempre tenere in mente per arrivare a una conclusione nel caso specifico? Allora, la prima cosa è la seguente. Quando la persona che è proprietaria del bene mi ha chiesto di custodire il bene, ha specificato esattamente in quale luogo dovrà essere custodito? Sì o no? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare e vedremo secondo il caso più avanti. Seconda domanda è le condizioni dell'accaduto. In altre parole, noi dobbiamo porci la domanda: questo bene è stato rovinato, è stato danneggiato? Facciamo l'esempio della Mishnah, la botte si è rotta, si è spaccata, quando? Quali erano le condizioni? Nel momento in cui io la stavo maneggiando, la stavo spostando, oppure dopo che l'ho già rimesso in un posto che secondo me è un luogo sicuro? Ok? Quindi la prima domanda qual era? Se è stato specificato un luogo specifico, esatto, preciso. Seconda domanda, quando è accaduto? In quali condizioni? Terza domanda, per quale motivo ho spostato, ho mosso, ho fatto qualcosa con questo bene? Le motivazioni possono essere, quello che ci interessa, due punti. Uno, se la motivazione è per il bene dell'oggetto, la regola è una. Se la motivazione è per un mio interesse, la regola è un'altra, chiaramente. Teniamo in mente questi tre punti e andiamo alla Mishnah. Leggiamo il testo della prima frase della Mishnah. Hamafkid chavit etzel chavero. Colui che dà in custodia una botte di vino presso il prossimo, un'altra persona. Velo yichadula habe'alim makom. In questo caso la Mishnah dice non hanno specificato un luogo dove esattamente custodire la botte. La persona poi, il custode, dice la Mishnah, vetiltela venishbera. Concluso il caso, lui l'ha spostata e poi si è rotta. Questo è il caso, questa è la descrizione della situazione dell'accaduto. Il caso è chiaro e i dettagli però non sono sufficienti. Ci dobbiamo porre quelle domande, dobbiamo capire meglio la situazione. Allora, prima di tutto la Mishnah ci ha dato un dettaglio importante. Non ha specificato un luogo. Ok? Quindi non ha detto deve essere in questo luogo preciso qua, gli ha detto fai come tu ritieni più opportuno. Bene, quindi non avendo specificato un luogo, allora, questo è un punto che mi dice, anche se l'ho rimesso in un altro posto, che ritengo sia ugualmente adatto, non è un problema. Non dovrei essere più considerato un ladro nel momento in cui lo rimetto là. Ok? Bene. Allora, questa è appunto la domanda, però ci sono altre domande da porsi. Sì. Per quanto riguarda il posto, il punto in cui è stato, non è stato indicato di metterlo, non sono considerato un ladro perché l'ho preso ma l'ho rimesso. Dove l'ho rimesso? Non fa niente, non ha specificato il luogo. Ma ci sono altri punti da prendere in considerazione, come abbiamo visto. E la Mishnah procede. Im mitoch yadon nishbera. Quali sono le condizioni sotto le quali è avvenuto questo problema? dalla mia mano è caduta, dice la Mishnah, cioè mentre io muovevo, spostavo, usavo, ero coinvolto in qualche maniera con l'oggetto nel momento in cui si è rotto, nel momento in cui è stato danneggiato. Allora, se la risposta è affermativa, sì, io stavo toccando, stavo muovendo mentre mentre muovevo si è rotta la botte, allora prendiamo in considerazione la terza cosa, il terzo punto di prima, e cioè, dice la Mishnah, le zorco, se lo sto muovendo per una mia esigenza, io il custode, allora Hayav. Anche se non è stato precisato il luogo, ma se è rotto nel momento in cui io lo sto usando, o toccando quello che è, e l'ho spostato e lo sto usando per un motivo mio, per un interesse mio, allora io sono Chayav, sono colpevole, sono considerato un ganav, un ladro, e devo restituire in toto tutto ciò che è stato danneggiato, risarcire. Mentre invece le zorka, se è per il bene della botte, cioè sposto la botte per posizionarla meglio, le condizioni climatiche di questa cantina non vanno bene, la sposto in un'altra cantina, quello che è, ma lo faccio per interesse della cosa che mi è stata richiesta, cioè di custodire la botte, allora patur, allora sono esente, perché sono uno shomer, non sono uscito fuori dalla categoria del custode. Anzi, ho custodito bene. Mentre invece, l'altra possibilità sarebbe, dice la Mishnah, im mishehincha nishbera. Mishehincha significa da quando l'ho posata. Ho rimesso a posto la botte e dopo si è rotta. Qual è l'alaha? La Mishnah ripete. Ben le zorko, ben le zorka. Dobbiamo di nuovo prendere in considerazione la motivazione dello spostamento della botte. In questo caso però, in entrambi i casi, sia che l'ha fatto per l'interesse proprio, che se l'avesse fatto per interesse, cioè per custodire meglio, senza interesse proprio, ma per il bene del bene che è custodito, in ogni caso patur, in ogni caso è esente. Perché è accaduto già dopo che l'ho rimesso. Rimesso dove? Beh, se non è stato precisato da chi ha voluto chiedere a me di custodirlo, non ha precisato in quale luogo specifico, allora va bene qualsiasi luogo, teoricamente. Quindi in questo caso, dice la Mishnah, patur, sei esente. Bene, allora, il commentatore Tosfot Yom Tov dice, le zorko significa per il proprio interesse, per un proprio fine, per esempio, lui fa un esempio che lo vuole usare come un gradino, una scaletta per salire sopra, per prendere come si chiamano, i pulcini, delle colombe, dei piccioni, che deve prendere da un nido, ok? E sale su questa cosa. Oppure potremmo dire una cosa moderna. Nella cantina devo cambiare la lampadina, sposto questa botte, salgo sulla botte per cambiare la lampadina. La uso come una scala, come ha detto il Tosfot Yom Tov. Beh, in questo caso la Mishnah dice, se l'avevo già rimessa a un posto buono, sono esente. E in questa situazione non cambia la motivazione perché l'ho spostata, come vi ricordate, perché ripetiamo, rientra sempre nella definizione dello shomer che è stata stipulata dall'inizio del momento della custodia. In questi casi in cui noi abbiamo detto patur, che è esente dal pagare, bisogna ricordare ciò di cui abbiamo parlato all'inizio del corso, e cioè che la Torah dice che nei casi in cui è patur, questa esenzione dipende però da una condizione, e cioè dalla shevua, dal giuramento. Lui deve fare un giuramento in Beddin, un giuramento ufficiale e formale, nel quale lui dice che non ha non è andato contro le regole e che non è stata colpa sua, ovviamente inteso nel senso di come abbiamo detto le condizioni prima, in questa situazione lui deve fare la Shevuah, il giuramento, e poi è esente dal pagare, dal risarcire. Questo è tutto molto chiaro nel momento in cui siamo partiti con la premessa che non è stato precisato un luogo dove dovrà rimanere il bene. Cosa succede se invece è sì stato precisato un luogo? Allora la Mishnah ora considera questa possibilità. Yichadula ha-ba'alim makom. Se il proprietario ha detto questa cosa va custodita esattamente in questo posto, in questa posizione, in questa maniera. Vetil tella venishbera. La persona ha mosso, ha spostato l'oggetto, la botte, ed è si è rotta. La Mishnah dice in questo caso non ci importa più la condizione se fosse stata rotta quando la maneggiava o quando l'ha già riposta al suo posto. In questa situazione, ben metoch yado, che sia accaduto mentre lo teneva, ben mishenicha, che sia accaduto dopo che l'ha riposta, le tzorko chayav le tzorka patur. Non ci interessa la differenza se ce l'ha in mano o meno, perché? Perché quella doveva rimanere in quella posizione precisa e non essere mossa da lì secondo l'accordo stipulato all'inizio. Quello che ci interessa invece è la motivazione di aver rimosso o spostato questa botte. Perché la motivazione è comunque importante. Nonostante fossero d'accordo che la botte avrebbe dovuto rimanere in quel posto preciso, ma c'è l'ultima cosa da prendere in considerazione. Perché l'hai fatto? Se è per il bene della botte, se qui c'è uno stato pericolante e io sposto la botte per salvare la botte, sto facendo il mio lavoro come custode. Anche se è stato specificato un luogo specifico, ma se quel luogo non è più valido, o ci sono altre condizioni che fanno sì che io devo spostare la botte per proteggerla, quindi le zorca per esigenze del bene stesso, in quel caso è chiaro che sono patur, sono esente, rimango nell'ambito del mio vero lavoro che è il shomer, sono un custode, mentre invece se lo faccio per una motivazione di interesse personale, perché devo cambiare la lampadina, Hayav. Sono colpevole, devo risarcire il danno, indifferentemente della situazione specifica, se è successo anche dopo che l'ho rimesso a posto. Perché? Perché secondo il nostro accordo non doveva essere mosso per niente da quel luogo preciso. L'ho già rimesso, sì, ma l'hai preso per un tuo interesse, dal momento che l'hai toccato, il tuo livello di responsabilità cambia perché cambia la tua definizione, non sei più shomer, non sei più custode, sei ganav, sei un ladro. E il ladro è responsabile al massimo. Quindi non è un problema adesso di dove si trova, è proprio il fatto che l'hai mosso per motivazione, non per il bene dell'oggetto, non sei più uno shomer. E quindi la responsabilità sale a livello di quello del ladro, che ha una responsabilità totale. Conseguenza, devi risarcire, chayav, colpevole. Quindi, nel momento in cui uno shomer, per ricapitolare, lo shomer che sposta l'oggetto per il bene dell'oggetto non è considerato un ganav, non cambia il suo status di shomer. Se lo muove per un motivo diverso, che è di un fine proprio, allora è considerato un ganav e è obbligato a risarcire ogni tipo di danno, anche cose di forza maggiore, come il ladro. Se poi lo sposto e lo rimetto a posto, allora non sono considerato un ganav, se non che è stato stipulato un luogo preciso dove dovrà rimanere e non essere toccato per niente, se non per bene della botte stessa. Quindi in questo caso non sono considerato un ganav se non è stato stipulato il luogo preciso, dopo che l'ho rimesso a posto, mentre invece se è stato stipulato il luogo preciso sono considerato Ganav anche dopo che l'ho rimesso a posto. E la domanda è, cosa abbiamo imparato qui? Abbiamo imparato che una custodia può trasformarsi in un furto, abbiamo imparato cosa significa muovere e rimettere a posto una cosa custodita secondo le condizioni, abbiamo spiegato cosa significa specificare un luogo o meno, abbiamo spiegato cosa significa un danno che avviene nel momento del, diciamo così, del reato, cioè come la Mishnah ha detto, se gli è caduta di mano o se gli è caduto in un altro momento, e abbiamo capito la distinzione tra la motivazione che ci può essere per averlo spostata piuttosto che un'altra motivazione, cioè parole povere se l'ho fatto per me o se l'ho fatto per il bene dell'oggetto. Quindi l'utilizzo di un oggetto che è stato dato in custodia al di fuori di quello che è il bene dell'oggetto nell'essere protetto sotto la tua custodia è considerato un uso improprio che rende chi lo fa un ganav, cioè lo fa rientrare in un'altra categoria, la categoria di furto, di essere un ladro. Rimettere l'oggetto, ormai lo consideriamo l'oggetto rubato, rimetterlo a posto dopo averlo preso, teoricamente non sono più ganav, torno ad essere shomer nel caso in cui non è stato specificato un luogo specifico come il primo caso della Mishnah. Nel caso invece in cui è stato precisato un luogo specifico, allora rimango un ganav finché non rimetto esattamente nella stessa condizione, nello stesso posto in cui è stato specificato all'origine. Allora la prossima volta che il tuo amico ti dà la sua Harley da tenere in garage, fai molta attenzione, ti conviene non toccarla.